Non sono stato in nessun posto, quindi ovunque. Dove il corpo non esiste, nei giardini d'aria. E non serve la parola, l'occhio dice quel che sa. L'anima non ha un luogo, è soltanto è soltanto. E sono stato in ogni posto, da nessuna parte. Dove non possiedi niente, dentro a sogni d'acqua. E non serve la parola, l'occhio mostra quel che ha. L'anima non ha un luogo, è soltanto là nei fiori trasparenti dell'ubiquità. Dove non sei più nessuno, ma qualcuno già. E non serve la parola, l'occhio vede quel che va. L'anima non ha un luogo, è soltanto è.